Il fantasma nel fossato. Per qualche ragione, Faith, Carl e Una non riuscivano a scrollarsi di dosso l'impressione che la storia del fantasma di Harry Warren aveva avuto sulla loro immaginazione. Non avevano mai creduto ai fantasmi. Avevano sentito tantissime storie in proposito. Mary Vance gliene aveva raccontate di ben più spaventose, ma riguardavano sempre persone e posti lontani e sconosciuti. E dopo un iniziale brivido a metà tra eccitazione e paura, se ne dimenticavano. Quella storia, invece, tornò a casa insieme a loro. Il vecchio giardino dei Bailey era alle porte di casa, nella dorata valle dell'arcobaleno. Ci passavano in continuazione. Erano andati tante volte a cogliervi fiori ed era anche una scorciatoia quando volevano andare direttamente in paese. Ma ora non ci avrebbero più messo piede. Dopo l'orribile racconto di Mary Vance, non ci si sarebbero avvicinati neanche morti. In fondo, cos'era la morte in confronto alla mostruosa possibilità di cadere tra le grinfie del fantasma strisciante di Harry Warren? Una calda sera di giugno erano tutti e tre seduti sotto gli alberi innamorati e si sentivano un po' soli. Quella sera non era sceso nessuno nella valle. Jane Blythe era a Charlottetown a sostenere l'esame di ammissione alla scuola. Jerry e Walter Blythe erano andati al porto per fare un giro in barca con il vecchio capitano Crawford. Nan, Dee, Rilla e Shirley invece erano andate a far visita a Kenneth e Percy Sford, che erano venuti con i loro genitori a passare qualche giorno nella vecchia casetta dei sogni. Nan aveva invitato Faith ad andare con loro, ma lei aveva rifiutato. Non l'avrebbe mai ammesso, ma era un po' gelosa di Percy Sford, della cui bellezza e fascino cittadino aveva sentito tanto parlare. Non aveva intenzione di fare la seconda violino di nessuno. Lei e Una quindi avevano preso un libro e si erano messe a leggere nella valle dell'arcobaleno, mentre Carl era impegnato a osservare gli insetti sulle sponde del ruscello. Era stato un pomeriggio felice finché non si erano tutti e tre resi conto che era giunto il tramonto e il vecchio giardino dei Bailey era pericolosamente vicino. Carl andò a sedersi accanto alle ragazze e tutte desiderarono essersi avviate verso casa un po' prima, ma nessuno disse una parola. Nel cielo di occidente si stavano ammassando grandi nuvole di velluto violetto che poi si sparpagliarono sopra la valle. Non c'era vento e all'improvviso calò un silenzio strano e inquietante. Sopra la palude volteggiavano migliaia di lucciole. Di certo qualche importante assemblea era in procinto di riunirsi, ma tutto a un tratto la valle dell'arcobaleno non era più un posto così piacevole. Faith lanciò un'occhiata timorosa al vecchio giardino dei Bailey in cima alla valle e in quel momento le si gelò il sangue. Semmai è davvero accaduto a qualcuno. Carl e Una seguirono con gli occhi il suo sguardo impietrito e un lungo brivido percorse la loro spina dorsale sotto il grande larice che incombeva sul fossato in rovina e invaso dall'erba intorno al giardino dei Bailey c'era qualcosa di bianco, un'indistinta forma bianca avvolta dalle ombre del crepuscolo. I tre ragazzi Meredith rimasero seduti a guardarla, immobili come pietre. Deve essere il vitellino, sussurrò infine Una. È troppo grande per essere un vitello, rispose Faith. Anche lei, in un sussurro, aveva la bocca e le labbra così secche che riusciva a malapena ad articolare le parole. Tutto a un tratto Carl esclamò: Sta venendo qui! Le ragazze lanciarono un'altra occhiata terrorizzata. Sì. Stava strisciando oltre il fossato come nessun vitello sarebbe mai stato in grado di fare. La ragione cedette al panico e per un istante il trio fu convinto di aver visto il fantasma di Harry Warren. Carl balzò in piedi e corse via. Le ragazze urlarono all'unisono e lo seguirono. Risalirono la collina correndo come pazze, attraversarono la strada e si rifugiarono nella canonica. Quando erano uscite, la zia Marta stava rammendando in cucina, ma ora non c'era più. Si precipitarono nello studio. Era buio e deserto. D'istinto girarono i tacchi e si diressero verso Ingleside, senza però passare dalla valle dell'arcobaleno. Scesero giù per la collina e con le ali ai piedi per il terrore percorsero le strade di Glen, Carly in testa e Una a fare da retroguardia. Nessuno provò a fermarli, anche se tutti quelli che li videro si chiesero cosa mai fosse preso a quei ragazzi della canonica questa volta. Giunti al cancello di Ingleside incontrarono Rosemary West, che era appena stata lì per restituire alcuni libri presi in prestito. Lei notò subito i loro volti terrorizzati e gli occhi sgranati e capì che i loro giovani animi erano stati turbati da qualcosa di davvero spaventoso e terribile. Con un braccio fermò Carl e con l'altro Faith, e una andò a sbattere contro di lei e la abbracciò stretta. Bambini cari, cosa è successo? Disse. Cosa vi ha spaventate? Il fantasma di Harry Warren, rispose Carl battendo i denti. Il fantasma di Harry Warren? Disse stupefatta Rosemary, che non aveva mai sentito quella storia. Sì, singhiozzò Faith isterica, sul fossato dei Bailey. L'abbiamo visto e lui ci ha inseguito. Rosemary guidò le tre povere creature terrorizzate fino alla veranda di Ingleside. Gilbert e Anna non c'erano, avevano accompagnato i figli alla casa dei sogni, ma sulla porta comparve Susan, magra, concreta e molto poco spettrale. Cos'è questo baccano? Chiese. I bambini raccontarono di nuovo balbettando la terribile storia, mentre Rosemary li stringeva a sé per consolarli. Probabilmente era un gufo, disse Susan imperturbabile. Un gufo? La considerazione dei ragazzi Meredith per l'intelligenza di Susan subì un duro colpo dopo quell'affermazione. Era più grande di 1 milione di gufi, disse Carl singhiozzando. Oh, quanto si sarebbe vergognato di quei singhiozzi pochi giorni dopo! E strisciava, come ha detto Mary, voleva superare il fossato per prenderci. I gufi strisciano? Rosemary guardò Susan. Devono aver visto qualcosa di strano per spaventarsi in questo modo, disse. Andrò a dare un'occhiata. Disse Susan imperturbabile. Ora calmatevi, bambini. Qualsiasi cosa abbiate visto, non era un fantasma. Quanto al povero Harry Warren, immagino che sia ben felice di riposare nella sua tomba da quando ci è arrivato. Non c'è pericolo che torni, potete starne certi. Se nel frattempo lei riesce a fargli ragionare, signorina West, io andrò a vedere come stanno le cose. Susan si avviò verso la valle dell'arcobaleno, valorosamente armata di un forcone che aveva trovato appoggiato alla staccionata sul retro, dove il dottore si era dato da fare con il fieno. Forse non le sarebbe stato molto utile contro un fantasma, ma la faceva sentire più sicura. Tuttavia, quando arrivò nella valle dell'arcobaleno, non c'era niente da vedere. Nessun bianco visitatore acquattato tra le ombre del vecchio giardino, incolto dei Bailey. Susan lo attraversò tutto a grandi passi e bussò con il forcone alla porta del piccolo cottage che sorgeva sull'altro lato, dove vivevano la signora Stimson e le sue due figlie. A Ingleside, nel frattempo, Rosemary era riuscita a calmare i bambini. Singhiozzavano ancora per lo spavento, ma in loro cominciava a insinuarsi il salutare sospetto di essersi resi ridicoli. Il sospetto divenne una certezza quando Susan finalmente tornò. Credo di aver capito cos'era il vostro fantasma, disse con un sorriso severo mentre si sedeva sulla sedia a dondolo e si sventolava un po'. Una settimana fa la vecchia signora Stimson aveva messo a candeggiare due lenzuola bianche di cotone nel giardino dei Bailey. Le aveva stese sopra il fossato all'ombra dell'arice perché lì l'erba è più bassa e più pulita. Questa sera è andata a riprenderle. Aveva in mano il suo lavoro a maglia e così se le è messe sulle spalle per trasportarle. Ma le è caduto un ferro e allora si è messa a cercarlo. Tra parentesi, non l'ha mai trovato. Ma si è messa a quattro zampe a cercarlo e a un certo punto ha sentito delle urla giù nella valle e quando ha alzato la testa ha visto tre bambini che correvano su per la collina. Ha pensato che fossero stati punti da qualcosa e il suo povero vecchio cuore si è agitato così tanto che non è riuscita a muoversi o a parlare ed è rimasta lì, accovacciata, finché non sono spariti. Poi è tornata a casa barcollando e da allora le stanno dando degli stimolanti. Ha il cuore in pessime condizioni e dice che non si riprenderà dallo spavento per tutta l'estate. I Meredith rimasero seduti immobili, rossi di una vergogna che nemmeno la comprensiva presenza di Rosemary riusciva a cancellare. Quando tornarono a casa, incontrarono Jerry al cancello e gli confessarono tutto con grande rimorso. Una riunione del Club della Buona Condotta fu fissata per il mattino seguente. La signorina West è stata gentile con noi stasera, vero? Disse Faith dopo essersi messa a letto. Sì, ammise una. È proprio un peccato che le persone cambino quando diventano matrigne. Io non credo che succeda, disse Faith, convinta. La punizione di Carl. Non capisco proprio perché dobbiamo essere puniti, disse Faith, imbronciata. Non abbiamo fatto niente di male. Come potevamo non spaventarci? E papà non subirà conseguenze. È stato solo un incidente. Siete stati dei codardi, disse Jerry con sentenzioso disprezzo. Avete ceduto alla paura, è per questo che dovete essere puniti. Tutti rideranno di voi e questo è un disonore per la famiglia. Oh, se tu avessi visto quella cosa terribile, disse Faith, rabbrividendo, sapresti che siamo già stati puniti abbastanza. Non vorrei rivederlo per niente al mondo. Anche tu saresti scappato se fossi stato con noi, borbottò Carl. Siete scappati da una vecchia signora con sopra un lenzuolo? Li prese in giro Jerry. Ah ah ah! Non sembrava per niente una vecchia signora, esclamò Faith. Era una sagoma bianca gigantesca che strisciava nell'erba, proprio come faceva Harry Warren nel racconto di Mary Vance. Ridi pure, Jerry Meredith. Non penso proprio che avresti riso se fossi stato lì. Comunque, quale sarebbe la punizione? Secondo me non è giusta, ma ci dica cosa dobbiamo fare, giudice Meredith. Per come la vedo io, disse Jerry aggrottando la fronte, quello che ha più colpe è Carl. È stato il primo a scappare, se ho ben capito. E poi, essendo un uomo, doveva restare a proteggere voi ragazze dal pericolo, lo sai, vero Carl? Immagino di sì, brontolò Carl, rosso di vergogna. Molto bene, la tua punizione allora sarà questa. Stasera dovrai restare nel cimitero da solo sulla tomba di Ezekiah Pollock fino a mezzanotte. Carl rabbrividì. Il cimitero non era molto lontano dal giardino dei Bailey. Era una dura prova, ma Carl non vedeva l'ora di lavare l'onta e dimostrare di non essere un codardo. Dopotutto. Va bene, disse testardo, ma come faccio a sapere quando è mezzanotte? Le finestre dello studio rimarranno aperte. Sentirai l'orologio suonare. Ricorda però che non puoi andartene prima dell'ultimo rintocco. Quanto a voi ragazze, dovrete rinunciare alla marmellata dopo cena per una settimana. Faith e Una rimasero di stucco. Parevano quasi pensare che la prova di Carl, terribile ma di breve durata, fosse una punizione più leggera del loro prolungato tormento. Un'intera settimana di pane molliccio, senza poterlo addolcire con la marmellata. Ma le regole del club impedivano loro di rifiutarsi. Le ragazze accettarono la punizione con tutta la filosofia di cui erano capaci. Quella sera andarono tutti a dormire alle 9, tranne Carl, che era già di sentinella sulla tomba. Una sgattaiolò fuori per augurargli la buonanotte, il suo tenero cuoricino gonfio di compassione. Oh, Carl, hai molta paura? Neanche un po', rispose lui spavaldo. Non chiuderò occhio fino a mezzanotte. Disse una. Se ti senti solo, guarda la nostra finestra e ricordati che dentro ci sono io e sono sveglia a pensare a te. Ti farà un po' di compagnia, vero? Andrà tutto bene, non ti preoccupare per me, disse Carla. Ma nonostante le sue parole audaci, quando le luci della canonica si spensero, Carla si sentì molto solo. Aveva sperato che suo padre si fermasse nello studio, come faceva spesso, così avrebbe patito meno la solitudine. Ma quella notte il signor Meredith era stato chiamato al villaggio dei pescatori, giù al porto, per impartire una benedizione a un uomo morente, e probabilmente non sarebbe tornato prima di mezzanotte. Carl doveva sopportare quella prova da solo. Un abitante di Glen passò di là con una lanterna, proiettando ombre misteriose che lampeggiarono nel cimitero, simili a una danza di demoni o di streghe. Infine passarono e tornò l'oscurità. Le luci di Glen si spensero una dopo l'altra. Era una notte molto buia. Il cielo era coperto di nubi e da est soffiava un vento tagliente, freddo, nonostante il periodo dell'anno. In lontananza, all'orizzonte, si intravedevano le luci fioche di Charlottetown. Il vento ululava e sospirava tra i vecchi abeti. L'imponente monumento funebre di Alec Davis scintillava bianco nella notte e il salice che vi cresceva proprio accanto tendeva i suoi rami ritorti, simile a uno spettro. Lo stormire delle fronde dava talvolta quasi l'impressione che anche il monumento si muovesse. Carl si rannicchiò sulla lapide, con le gambe raccolte sotto di sé. Non era molto piacevole lasciarle penzolare dall'orlo della tomba, e se delle mani ossute fossero emerse da sotto la tomba del signor Pollock e gli avessero afferrato le caviglie? Tempo prima, sedute insieme su quella stessa tomba, Mary Vance aveva sollevato allegramente quell'ipotesi, che in quel momento si ripresentò a tormentare Carl. Ma lui non credeva in quelle cose, non credeva veramente neanche al fantasma di Harry Warren. Quanto al signor Pollock, era morto da 60 anni, perciò probabilmente non gli importava nulla di chi sedesse sulla sua tomba. Tuttavia, c'è qualcosa di strano e terribile nell'essere svegli quando il resto del mondo dorme. Sei completamente solo e hai soltanto il tuo debole carattere per opporti alle potenti forze dell'oscurità. Carl aveva solo 10 anni e i morti erano tutto intorno a lui. E quanto desiderava che l'orologio battesse la mezzanotte. Oh, quanto lo voleva! L'avrebbe mai fatto! Di sicuro la zia Marta si era dimenticata di caricarlo. Poi invece batté le 11. Solo le 11! Doveva restare un'altra ora in quel posto così tetro! Se solo ci fossero state un paio di stelle amiche! Il buio era così fitto da essere opprimente e per tutto il cimitero si udiva un fruscio come di passi. Carla rabbrividì, in parte per la paura, in parte per il freddo. Poi cominciò a piovere. Uno scroscio d'acqua gelido e penetrante. La maglia di cotone leggero e la camicia di Carla si inzupparono subito e lui si sentì gelare fin nelle ossa. Il disagio fisico gli fece dimenticare le sue paure, ma doveva comunque restare lì fino a mezzanotte. Era la sua punizione e ne andava del suo onore. Nessuno aveva preso in considerazione la pioggia, ma non faceva differenza. Quando l'orologio dello studio batté finalmente la mezzanotte, una figuretta bagnata fradicia scese dalla tomba del signor Pollock, rientrò nella canonica e salì al piano di sopra per andare a letto. Carl batteva i denti dal freddo e pensò che non si sarebbe mai più sentito al caldo in vita sua. Il mattino dopo, invece, era più accalorato che mai. Jerry lanciò un'occhiata al suo viso arrossato e corse a chiamare suo padre. Il signor Meredith arrivò di corsa, il volto pallido dopo la nottata passata a vegliare un uomo sul suo letto di morte. Era tornato a casa solo all'alba. Si chinò angosciato sul suo bambino. Carl, stai male? Chiese. Quella tomba laggiù, disse Carl. Si sta muovendo, viene verso di me. Tenetela lontana, per favore. Il signor Meredith corse al telefono e 10 minuti dopo il dottor Blythe arrivò alla canonica. Mezz'ora più tardi fu spedito un telegramma in città per convocare un'infermiera e tutta Glen seppe che Carl Meredith era ammalato di polmonite e che il dottor Blythe era stato visto scuotere il capo. Gilbert scosse il capo molte volte nei 15 giorni seguenti. La malattia di Carl peggiorò in broncopolmonite e arrivò una notte in cui il signor Meredith non fece altro che camminare avanti e indietro nel suo studio, mentre Faith e Una piangevano abbracciate in camera e Jerry, in preda al rimorso, si rifiutava di alzarsi dal pavimento di fronte alla porta di Carl. Il dottor Blythe e l'infermiera non si allontanarono mai dal suo capezzale, lottarono valorosamente contro la morte fino all'alba e ottennero la vittoria. Carl superò la crisi e si riprese. La notizia si diffuse via telefono in tutto il paese in attesa e la gente si rese conto di quanto tutti amassero profondamente il pastore e i suoi figli. Non ho avuto una notte decente di sonno da quando ho sentito che il bambino stava male, disse la signorina Cornelia Danna, e Mary Vance ha pianto così tanto che quei suoi strani occhi sembravano due bruciature tonde su un lenzuolo. È vero che Carla si è preso la polmonite perché è rimasto fuori nel cimitero sotto la pioggia per una scommessa? No. Era lì come punizione per essere stato così codardo in quella faccenda del fantasma di Harry Warren. A quanto pare i bambini hanno fondato un club per educarsi da soli e si puniscono quando fanno qualcosa di sbagliato. Jerry ha raccontato tutto al signor Meredith. Poverini, disse la signorina Cornelia. Carl migliorò rapidamente anche perché la congregazione fece arrivare alla canonica cibo sufficiente a sfamare un esercito. Tutte le sere Norman Douglas portava una dozzina di uova fresche e un barattolo di panna. A volte restava per un'oretta buona a discutere con il signor Meredith della predestinazione, ma più spesso proseguiva oltre la canonica e saliva sulla collina che sovrastava Glen. Quando Carl poté tornare nella valle dell'arcobaleno, fu organizzata una festa in suo onore e il dottore venne ad aiutare i ragazzi con i fuochi d'artificio. C'era anche Mary Vance, che però non raccontò storie di fantasmi. La signorina Cornelia le aveva fatto una bella ramanzina in proposito e Mary non l'avrebbe dimenticata tanto presto. Due persone testarde. Mentre tornava a casa dopo la lezione di musica a Ingleside, Rosemary West fece una deviazione per passare dalla sorgente segreta della Valle dell'Arcobaleno. Non c'era andata per tutta l'estate, quello splendido angolino non aveva più attrattive per lei. Lo spirito del suo giovane amore non veniva più all'appuntamento. E i ricordi legati a John Meredith erano troppo dolorosi e intensi. Guardando indietro, oltre la valle, aveva però visto Norman Douglas superare con un balzo leggero, quasi da giovanotto, il fossato del giardino dei Bailey e aveva immaginato che stesse salendo sulla collina. Se l'avesse incrociato, sarebbe stata costretta a percorrere la via di casa insieme a lui e non ne aveva voglia. Perciò scivolò dietro gli aceri che circondavano la sorgente, sperando che lui non l'avesse vista e che passasse oltre. Ma Norman l'aveva vista, anzi, stava cercando proprio lei. Era da tempo che voleva parlare con Rosemary, ma lei sembrava evitarlo. A Rosemary non era mai piaciuto molto Norman. Il suo atteggiamento da sbruffone, i suoi scoppi d'ira, la sua rumorosa ilarità l'avevano sempre respinta. Tempo prima si era chiesta spesso come era possibile che Helen fosse stata attratta da lui. Norman Douglas sapeva benissimo di non piacerle, ma ci rideva sopra. Non era tipo da preoccuparsi se non stava simpatico a qualcuno e nemmeno portava rancore alle persone in questione, perché lo considerava una sorta di complimento distorto. Dal canto suo, pensava che Rosemary fosse una brava ragazza e aveva intenzione di essere un ottimo cognato per lei. Ma prima di diventarlo, doveva parlare con lei. Era sulla soglia di un negozio di Glen quando l'aveva vista uscire da Ingleside e si era lanciato giù per la valle per intercettarla. Rosemary si era seduta a pensare sul trono d'acero dove aveva incontrato John Meredith quella sera di quasi un anno prima. La minuscola sorgente scintillava e zampillava sotto i grovigli di felci e scampoli di tramonto color rubino, si intravedevano tra i rami arcuati. Di fianco a lei cresceva un alto ciuffo di aster dalla forma perfetta. Era un angolino di sogno, incantevole ed etereo come dovevano essere state le abitazioni delle fate e delle driadi nelle foreste antiche. Norman Douglas vi fece irruzione, disperdendo e annullando in un solo istante tutto quell'incanto. La sua presenza sovrastava completamente ciò che aveva intorno. Non esisteva nulla se non Norman Douglas, alto e soddisfatto con la sua folta barba rossa. Buonasera, lo salutò freddamente Rosemary alzandosi in piedi. Buonasera, ragazzina, siediti, siediti, vorrei parlarti. Benedetta ragazza, perché mi guardi così? Non voglio mica mangiarti. Ho già cenato. Sediamoci e parliamo da persone civili. La sento benissimo anche da qui, disse Rosemary. Certo, ragazzina, se apri bene le orecchie. Volevo solo che ti mettessi comoda, mi sembri un po' a disagio lì in piedi. Beh, io comunque mi siedo. Norman si sedette nello stesso punto in cui si era seduto John Meredith. Il contrasto era così enorme che Rosemary temette di cedere a un attacco di riso isterico. Norman si tolse il cappello, posò le grandi mani arrossate sulle ginocchia e la guardò con un lampo negli occhi. Avanti, ragazzina, non essere così rigida, disse ossequioso. Quando voleva, sapeva esserlo. Facciamoci una chiacchierata da persone ragionevoli, adulte e amiche. C'è una cosa che voglio chiederti. Ellen dice che non vuole farlo, perciò direi che tocca a me. Rosemary abbassò gli occhi sulla sorgente che pareva essersi ridotta a un rivolo di rugiada. Norma la guardò con aria un po' disperata. Avanti, dammi una mano, disse. Cosa vuole che l'aiuti a dire? Chiese Rosemary sprezzante. Lo sai bene quanto me, ragazzina. Non facciamone un melodramma. Ci credo che Ellen aveva paura di chiedertelo. Senti, ragazzina, io e Ellen vogliamo sposarci. Te l'ho fatta semplice, mi pare. Hai capito? Ma Ellen dice che non può farlo se tu non la liberi da una sciocca promessa che ha fatto. Allora lo farai? Lo farai? Sì, disse Rosemary. Norman balzò in piedi e le afferrò la mano riluttante. Bene, sapevo che avresti detto di sì. L'avevo detto a Ellen, sapevo che ci sarebbe voluto appena un minuto. Adesso, ragazzina, va a casa e di a Ellen che ci sposeremo tra 15 giorni e che tu verrai a vivere con noi. Non ti lasceremo mica appollaiata su quella collina come un corvo solitario, non preoccuparti. Lo so che mi detesti, ma Dio solo sa se non sarà divertente vivere nella stessa casa con qualcuno che mi detesta. Darà un po' di pepe alla vita. Ellen mi incenerirà e tu mi gelerai, non mi annoierò neanche per un istante. Rosemary non si prese la briga di dirgli che mai nella vita avrebbe acconsentito a vivere sotto il suo stesso tetto. Lasciò che tornasse a Glen, felice e contento, mentre lei si avviava lentamente su per la collina. Sapeva che sarebbe accaduto fin da quando era tornata da Kingsport e aveva trovato Norman Douglas come ospite serale fisso. Tra lei ed Ellen non avevano mai nemmeno pronunciato il suo nome, ma proprio il fatto che lo avessero evitato diceva tutto. Non era nella natura di Rosemary covare rancore, o l'avrebbe fatto di certo. Invece fu fredda ma cordiale con Norman e continuò a comportarsi normalmente con Ellen. Ma questo secondo corteggiamento aveva messo Ellen un po' a disagio. Era in giardino insieme a St. George quando Rosemary rientrò a casa. Le due sorelle si incontrarono sul vialetto delle dahlie. St. George si acciambellò sulla ghiaia e arrotolò con grazia la sua lucente coda nera intorno alle zampe bianche, con tutta l'indifferenza di un gatto ben nutrito, ben curato e ben educato. «Hai mai visto dahlie come queste?» chiese Ellen orgogliosa. «Sono le più belle che abbiamo mai avuto.» A Rosemary non erano mai piaciute le dahlie. La loro presenza nel giardino era una concessione al gusto di Helen. Ne notò una enorme a chiazze rosse e gialle che incombeva su tutte le altre. Quella Dahlia, disse indicandola, è proprio come Norman Douglas. Potrebbe essere sua sorella gemella. Il volto scuro di Helen si fece tutto rosso. Ammirava molto quella Dahlia e sapeva che a Rosemary invece non piaceva e che ciò che aveva detto non voleva essere un complimento. Ma non osò risentirsi. La povera Helen non osava risentirsi di nulla in quel momento. Era la prima volta che Rosemary pronunciava il nome di Norman in sua presenza e sentiva che era il preludio di qualcosa. Ho incontrato Norman Douglas nella valle, disse Rosemary guardando la sorella negli occhi, e mi ha detto che volete sposarvi. Ha chiesto il mio permesso. Ah sì? E tu cosa hai risposto? Chiese Helen, tentando di mantenere un tono di voce normale e naturale e fallendo su tutta la linea. Non riusciva a guardare Rosemary negli occhi. Abbassò lo sguardo sul dorso lucente di St. George e provò una paura terribile. Rosemary poteva aver detto di sì oppure di no. Se aveva detto di sì, Helen avrebbe provato così tanta vergogna e rimorso da risultare una sposa profondamente a disagio. Se invece aveva detto no, eh beh, Helen aveva già imparato una volta a vivere senza Norman Douglas, solo che le sembrava di aver completamente dimenticato la lezione e aveva la sensazione di non poterla imparare di nuovo. Ho risposto che per quanto mi riguarda siete liberissimi di sposarvi quando vi pare, disse Rosemary. Grazie, disse Helen, sempre con gli occhi fissi su St. George. Il viso di Rosemary si addolcì. Spero che sarai felice, Helen, disse teneramente. Oh, Rosemary. Helen alzò lo sguardo su di lei a disagio. Mi vergogno così tanto. Non me lo merito. Non dopo quello che ti ho detto. Non ne parliamo, si affrettò a dire Rosemary con decisione. Ma, insisté Helen, adesso anche tu sei libera e non è troppo tardi. John Meredith. Helen West. Sotto tutta la sua dolcezza in Rosemary c'era del carattere e ora lampeggiò nei suoi occhi azzurri. Ti ha dato di volta il cervello, forse? Pensi che potrei andare da John Meredith e dirgli: Mi scusi, signore, ho cambiato idea. Spero che lei non abbia fatto lo stesso. Vuoi davvero che faccia questo? No, no, ma con un po' di incoraggiamento magari lui potrebbe tornare. Mai. Mi disprezza adesso e ha ragione. Non ne parliamo più, Helen. Non ti porto rancore. Sposati con chi vuoi, ma non ti impicciare più dei miei affari. Allora devi venire a vivere con me, disse Helen. Non ti lascio qui da sola. Oh, pensi davvero che verrai a vivere a casa di Norman Douglas? E perché no? Esclamò Helen, un po' irritata nonostante l'umiliazione che provava. Rosemary scoppiò a ridere. Helen, pensavo che avessi un po' di senso dell'umorismo. Mi ci vedi davvero? Non capisco perché non vuoi. Casa sua è grande, potresti stare per conto tuo. Lui non ti darebbe alcun fastidio. Helen, non pensarci nemmeno e non me ne parlare più. In questo caso, disse Helen con fredda determinazione, non lo sposerò, non ti lascio qui da sola e la faccenda si chiude qui. Ah, non dire sciocchezze, Helen. Non sono sciocchezze, è la mia decisione finale. Sarebbe assurdo se tu continuassi a vivere qui da sola a 1 chilometro di distanza dalla casa più vicina. Se non vuoi venire con me, rimarrò io qui con te. Non è materia di discussione, quindi non ci provare. Oh! Lascerò l'onore a Norman, disse Rosemary. A Norman ci penso io, so come gestirlo. Non ti avrei mai chiesto di liberarmi dalla promessa, mai e poi mai, ma dovevo spiegare a Norman perché non potevo sposarlo e lui ha detto che te l'avrebbe chiesto. Non ho potuto impedirlo. Non pensare di essere l'unica persona al mondo che ha rispetto di se stessa. Non mi sognerei mai di sposarmi e lasciarti qui da sola e scoprirai che posso essere testarda quanto te. Rosemary si voltò e rientrò in casa alzando le spalle. Helen abbassò lo sguardo su St. George, che non aveva battuto ciglio né agitato un singolo baffo per tutta la durata del colloquio. St. George, questo mondo sarebbe davvero noioso senza gli uomini, lo ammetto, ma sono quasi tentata di pensare che sarebbe meglio se non ci fossero. Guarda che disastro hanno fatto in questo caso, George. Hanno messo sottosopra la nostra cara vecchia vita. John Meredith ha cominciato e Norman Douglas ha dato il colpo finale. E adesso entrambi dovranno rassegnarsi. Norman è l'unico uomo che abbia mai incontrato a concordare con me che il Kaiser tedesco è la persona più pericolosa sulla faccia della terra, il che vuol dire che è un uomo di buon senso, ma io non posso sposarlo perché mia sorella è testarda e io sono più testarda di lei. Credimi, St. George, il pastore tornerebbe di corsa se lei alzasse un dito. Ma non lo farà, George, non lo farà mai. Non ci proverà neanche. E io non oso intromettermi. Non metterò il broncio, no, George. Rosemary non lo ha fatto, perciò non lo farò nemmeno io. Norman solleverà un polverone, ma la verità, pur è semplice, St. George, è che noi vecchi sciocchi dobbiamo smetterla di pensare al matrimonio. Beh, chi dispera è libero, chi spera è schiavo. George, vieni in casa adesso. Ti sei guadagnato un piattino di crema di latte, così almeno ci sarà qualcuno che è contento su questa collina.